L'altro pianeta di Laura Bettini. Buonasera, ben ritrovati, una nuova puntata in una nuova collocazione oraria per l'altro pianeta. D'ora in poi andremo sempre in onda la domenica dopo il giornale radio delle 19:15. Buonasera a tutti voi, quindi buonasera a Rossella Zadro, assessore all'ambiente del comune di Ferrara. Ben trovata, siamo lieti di ospitarla in questa puntata perché tra l'altro parleremo di un tema che è molto caro a Radio 24. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Uno dei comuni colpiti pesantemente dal terremoto di fine maggio, il comune di Ferrara, che danni ha riportato la città e l'area vicina alla città? Diciamo che la città di Ferrara ha riportato degli ingenti danni, anche se questa cosa non è emersa particolarmente in questi mesi, però per darle dei numeri, noi abbiamo fatto 8.750 sopralluoghi in case private che sono risultate per il 53% inagibili. Abbiamo 73 scuole, di cui 30 parzialmente inagibili. Abbiamo su una numerosità intorno alle 60 chiese, ne abbiamo 4 aperte e le altre tutte chiuse. Le imprese anche del nostro territorio hanno subito ingenti danni e le infrastrutture pure, tanto più che oggi stiamo registrando anche delle perdite dell'acqua su tutto il territorio proprio per le ingenti danni che abbiamo riportato anche su quel settore. La nostra città è sempre stata anche una città turistica, universitaria. Le dico, abbiamo chiuso il 2012 con il 70% in meno di turisti e il 30% in meno di iscrizioni all'università. E quindi anche un colpo da un punto di vista economico pesante, cioè ci sono il doppio, prima quello del terremoto, poi quello che ha riguardato tutte le attività produttive e lavorative, comprese l'università e il turismo, insomma. Certo, e poi anche un colpo abbastanza rilevante su, come dire, la sicurezza sociale, la coesione sociale. Per dirle, le chiese sono anche il luogo nelle parrocchie di aggregazione degli anziani, sono le sedi delle contrade del Palio, lì si svolge il doposcuola per i bambini, il catechismo, le attività ludiche, ci sono le palestre all'interno. Bene, tutto questo indotto è andato perduto. E abbiamo anche questa diaspora delle persone, perché è come aver perso dei punti di riferimento essenziali, per cui abbiamo ritenuto che la sicurezza e la sostenibilità della ricostruzione dovesse proprio basarsi anche su uno di questi cardini importanti, che è la coesione sociale. E certo, e da qui, da rendersi conto di questa situazione, è nato prima l'incontro Emiliani Brava Gente e poi anche il manifesto per la ricostruzione sostenibile, di cui parliamo tra pochissimo, perché poi è questo che mi ha colpito, sì, cercando notizie sull'area, un manifesto addirittura scritto per punti, ben elaborato, per la ricostruzione sostenibile, dove sostenibile non è quello che magari tutti possono aver pensato lì per lì, unendo le parole ricostruzione sostenibile, cioè non parliamo solo di case con maggiore efficienza energetica, parliamo di una sostenibilità anche sociale, non solo quella proprio dell'edilizia, no? Certamente, allora il terremoto ci ha consegnato la responsabilità di ricostruire con l'opportunità di migliorare tutto ciò che c'era, dalla sicurezza del territorio, delle case, dall'energia, come diceva lei, dalle infrastrutture, dall'andare a sanare per esempio anche tutte quelle situazioni che ancora presentavano l'amianto e che nell'emergenza hanno costituito un grosso problema, ma è stata anche una grossa opportunità per ripensare alle nostre conoscenze e guardare all'innovazione, alla ricerca e alla sicurezza sociale, e per costruire un territorio in cui la rete dei soggetti ha fatto davvero il valore aggiunto. Mm. E un'altra cosa vorrei aggiungere, l'efficienza della pubblica amministrazione, che è andata migliorando largamente. Avete avuto anche questo diciamo riscontro, cioè il dramma ha reso più efficiente la macchina? Assolutamente sì, la macchina amministrativa ha dimostrato di essere presente e di essere sul pezzo e di essere vicina ai cittadini, anche se devo dire alcune conoscenze, un know-how che prima, che anni fa poteva esistere sulla progettazione, altro, oggi nelle amministrazioni pubbliche si è un po' perso, oggi i nostri tecnici sono bravi nelle pratiche amministrative, un po' meno bravi diciamo nella progettazione, ecco. Questo qui potrebbe essere un elemento da tenere in considerazione anche per lo sviluppo futuro della pubblica amministrazione. Assessore, la riporto un pochino indietro sul manifesto, perché nella stesura di questo manifesto, che è disponibile su internet per chi desiderasse poi leggerlo può tranquillamente farlo, voi avete collaborato con chi era già passato attraverso situazioni come questa del terremoto, quindi avete collaborato con amministratori che provenivano dall'Aquila, con esperti del Friuli Venezia Giulia e così via, e questo mi pare un bellissimo risultato di sostenibilità all'interno del paese, cioè ci si aiuta, si è già passati attraverso certe situazioni, si dice che cosa fare e che cosa non fare. Devo dire che è stata veramente, quello che sottolinea lei è una cosa molto importante, perché per esempio la presidente della provincia dell'Aquila ci ha messo in evidenza quali errori non dovevamo commettere. Le New Town per esempio dell'Aquila, a detta anche della dottoressa Pezzopane, sono state una scelta che ha danneggiato la città. Il sindaco di Assisi invece ha parlato della partecipazione che ha creato sul territorio con i propri cittadini, ogni scelta è stata fatta insieme e loro hanno scelto anche di ricostruire con progetti piccoli e veloci, e la ricostruzione in quel modo lì è andata molto veloce, molto lineare diciamo. E poi l'ingegner Carpenedo che rappresentava il Friuli in quella sede ha parlato di come la ricostruzione dovesse essere bipartisan, che non ci dovessero essere divisioni politiche, e di come ricostruire laddove poi la città si era già sviluppata, e quindi lavorare su processi adattativi di ciò che già c'era e non su un nuovo consumo di suolo e non su nuove città, fosse veramente la scelta vincente, e così abbiamo fatto anche noi. A ottobre, vero, è nato il manifesto, a qualche mese di distanza che cosa si sente di dire abbiamo avviato o abbiamo già realizzato? Mi sento di dire che abbiamo già realizzato l'apertura di tutte le nostre scuole ed è ripartito con le nostre scuole, anche quelle dichiarate parzialmente inagibili, perfettamente funzionanti, con e riadattate con dei criteri che guardassero alla sicurezza e anche al risparmio energetico. E sulla sicurezza ci hanno aiutato molto anche i geologi, perché siamo andati a rimettere mano a queste scuole e ad attivare dei processi di risanamento e quindi di ristrutturazione partendo dalle fondamenta, perché uno dei problemi seri quando si ricostruisce è che si parte dal pavimento e si arriva al tetto, però si trascura sempre ciò che c'è sotto il costruito. Poi sugli 8.750 sopralluoghi nelle case private, di cui il 50% di questi sopralluoghi ha dato purtroppo un giudizio di inagibilità o parzialmente inagibilità delle case, anche lì si sta ricostruendo con dei sistemi antisismici e anche qui sul risparmio energetico. E le dico questa cosa perché io con tutto il territorio comunale del comune di Ferrara, insieme alle associazioni di categoria, università eccetera, stavamo costruendo insieme anche ad altri due comuni il piano per l'energia sostenibile, perché abbiamo aderito al patto dei sindaci a Bruxelles e avevamo in testa un'idea di piano che dovesse guardare solo all'efficienza energetica, ma alla produzione di energia rinnovabile, ma ai trasporti eccetera. Oggi lo abbiamo completamente stravolto, andando ad inserire tutti quegli interventi che verranno fatti sulle case private, ma anche ovviamente sugli edifici pubblici che sono stati colpiti, che avranno appunto una visione di ricostruzione che guarda alla sostenibilità nel senso della sicurezza degli immobili e anche dell'efficienza energetica. Quindi con l'esperienza fatta, attraverso anche il dramma vissuto, il manifesto, il confronto, è stato rivoluzionato il piano energetico alla fine. È stato rivoluzionato il piano energetico e le dirò anche di più, che questa rivoluzione del piano energetico ha rimesso in moto l'economia della città, perché andare a ricostruire le case, i palazzi, le infrastrutture, eccetera, comunque crea un indotto occupazionale. Quindi ci diamo appuntamento tra qualche mese per vedere un po' come procedono i lavori. Io nel frattempo ringrazio Rossella Zadro, assessora all'ambiente, ricordo, del Comune di Ferrara. Ringrazio anche tutti voi che ci avete seguito in questa nuova collocazione. L'appuntamento è rinnovato per la prossima settimana alla stessa ora.